Session. Mix. progressive session on Galaxy. Galaxy X3. avec Guillaume sur Galaxy. We'll be right back. Progressive Session Mix on Galaxy. week-end avec Guillaume sur Galaxy. We'll be right back. Signore, tu hai solo laude, la gloria e l'onore, e torni e benedizione. A te solo l'Altissimo sei confano, e tu non uomo e ne dignito non trovare. Laudato sia il Signore, con tutte le tue creature, specialmente il mio sorlo frate sole, lo quale giorno e t'allumini noi per lui, e te lo è bello e radiante con grande splendore. Da te è questo mi porta a significazione. Laudato sia il Signore, verso la luna e la stella, il cielo le giornate clari, chiare e preziose ti vengono belle. Laudato sia il Signore per frate vento, et per aereo e tenebre sereno e tenne tempo, per lo quale alle tue creature dà sostanzialmente. Laudato sia il Signore verso l'acqua, la quale non tonda, e tu mi detto che si rispettasse. Laudato sia il Signore per frate fuoco, per lo quale non tonda la notte, e te lo è bello, e ti oculo, e te robusto sul tuo vento. Laudato sia il Signore verso la nostra madre terra, la quale mi sostenta e governa, e produce diversi frutti con coloriti fiori eterni. Laudato sia il Signore per quelli che per loro per il tuo nome. Laudato sia il Signore per sora nostra morte corporale, dalla quale nulla uomo vente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troveranno le tue santissime volontà, che la morte seconda non la farà mai. Et benedicetemi, Signore, et ringraziate, e serviatemi con grande umiltà. Progressive Session Mix on Galaxy. week-end avec Guillaume sur Galaxy.